morire su questo vero divano. Arrivai completamente esausto dal Salone del Libro di Torino e ci si mise a fare la presentazione con un deficit di sonno incredibile, davvero lì sono stato molto vicino all'arresto cardiaco, sono proprio trascinato fuori. E effettivamente è vero che è cambiato tantissimo il clima, si sta molto meglio. Qui si è deciso da subito ovviamente di parlare dell'impero del sogno, sì, ma cercando di aprire il discorso in modo più ampio possibile. E è vero, è impossibile una volta che sei giù rialzarsi. Ovviamente potete, c'è anche la stanza, spandervi sull'altro divano, non... ci si mette a due, ma si sta, ci sentiamo compatti in quanto simposio. E c'è anche la stanza profonda, e qua è apparsa una visionaria che male non ci sta, anzi direi ci sta benissimo. Effettivamente questo gruppetto è una specie di spin-off del Sublime Simposio di Potere, anzi Vice forse dovresti unirti, o almeno metterti nel divano figlio rosso. Abbiamo anche Vincenzo Marasco. E per non parlare in codici, cos'è il Sublime Simposio del Potere? Il Sublime Simposio del Potere, dal nome volutamente e scherzosamente fantasy, è stata una serie di incontri che si sono svolti prima alla Todomodo e poi alla Cité, in cui fra diciamo persone interessate alla letteratura alta ma anche appassionate di fantasy, abbiamo provato a cominciare a farci delle domande sul fantastico e sul fantasy, a partire fondamentalmente da una consapevolezza: che se in Italia c'è ed è così radicato questo pregiudizio contro il fantastico, e deriva sì da una serie di contingenze storiche, Benedetto Croce che dice che le fatine fanno schifo, un certo rifiuto di tutto ciò che è lo speculativo da parte dei scrittori che pure nel Novecento ci si avvicinavano, una mancanza di grandi scrittori emersi dalle riviste popolari, ci sono insomma Dick e Lovecraft erano considerati e consideravano se stessi scrittori di serie B o C, poi si sono rivelati dei geni. Se voi andate a vedere i racconti fantastici della Domenica del Corriere dei primi del Novecento italiani, sono interessanti solo a scopo filologico, perché sono davvero dei brutti racconti, e quindi non c'è stato niente che è arrivato da lì. Inoltre non c'è mai stato un presidio accademico, perché Tolkien o Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, certo scrivevano fantasy, ma erano anche un professore di Oxford e uno di Cambridge, quindi da quelle posizioni, da quelle cattedre potevano difenderle come la posizione, scrivendo saggi, assegnando tesi, organizzando convegni o semplicemente con l'autorevolezza che avevano. E in Italia poi c'è stato anche a mischiare ulteriormente le acque, c'è stato anche un passaggio squisitamente e bizzarramente politico, perché mentre a Woodstock gli hippies esponevano striscioni con scritto "Frodo Baggins is stripping with us", Frodo è qui con noi in acido, e invece da noi il Signore degli Anelli diventava addirittura simbolo, se ne impossessava l'estrema destra, no? Campi Hobbit, la gioventù neofascista italiana negli anni 70 trova non occupato il Signore degli Anelli, che poi di fatto è questo che è successo, proprio perché in quel momento il marxismo ancora di più imponeva realtà, e quindi alle letture che fai? Leggi il Signore degli Anelli invece di leggerti l'ultimo commentario a Mao, ma che sei scemo, ah sei fascista, e uno dice sì, guarda, sono fascista perché mi voglio leggere gli Hobbit. Insomma, ci siamo trovati in questa situazione molto curiosa. Io ho un ricordo molto vivido che una volta al liceo, ma ai primi anni di liceo, io essendo andato al liceo pure un anno avanti ed essendo pure del 30 settembre, ero proprio un nano in prima liceo, e venni preso per il collo da uno di quinta che mi tirò su e mi disse ma che sei fascista, notando delle rune sul mio zainetto. E ovviamente lungi da me, avevo semplicemente fatto delle rune che venivano dal gioco Ultima, perché ero appassionato di fantasy. Mi era ignota questa questione, anche perché ad esempio mio padre aveva sempre frequentato questi immaginari, e quindi non avevo se ne è sempre sbattuto del fatto che fossero connotati ideologicamente. In casa il Signore Anelli c'era, e non era mai stato proprio problematizzato politicamente, tipo leggiti questo è divertente. E questo ha rallentato ulteriormente il dibattito, perché a un certo punto in Italia non soltanto il fantastico era sfigato, non soltanto non era una cosa seria, ma era pure da nazzi, quindi peggio non si poteva fare. E ovviamente non era, non è e non sarà così neanche per il solo Tolkien, poi su questo Renteri Alti ne può dire mille con cento volte più erudizione di me, però evidentemente anche Tolkien, per quanto fosse un cattolico, sul nazifascismo aveva idee molto chiare ed erano opposte, come del resto detto anche in plurime lettere. E però noi, quando cominciammo a lavorare su questo, avevamo un'altra consapevolezza, che mancava proprio oggi una qualunque forma di riflessione critica. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, bentornati sulle nostre frequenze. Vi parliamo degli spazi della Polveriera, dove si sta svolgendo, dove è appena iniziato il terzo festival della letteratura sociale. Festival che andrà avanti a partire da oggi pomeriggio, appunto dicevo è appena iniziata il primo incontro, dialoghi, immagini sovversive con Vanni Santoni, Silvia Costantino e Francesco Disa, Edoardo Rialti. Andremo avanti con il programma, con altre presentazioni alle 19, alle 19.30, avremo una cena, radio conversazioni e quant'altro. Stessa cosa per venerdì 18, domani sabato e esce di là. Per quanto riguarda la produzione di testi sulle riviste più o meno underground, e per quanto riguarda la presentazione sulle riviste online, oggi sulle riviste online, sia quelle storiche che quelle nuove, avviene un sacco di dibattito di qualità e ciò per il fantasy non avviene proprio, anzi fino a qualche anno fa la critica in Italia sul fantasy erano dei blog che si facevano una sorta di guerra fra bande. Questo avviene anche in altri ambiti della speculative fiction. Ad esempio l'anno scorso ci fu una bella polemica perché Nuovi Argomenti, una nota storica rivista legata alla Mondadori, fece un numero sulla fantascienza e con una scelta precisa, discutibile forse, chiese di scrivere racconti di fantascienza solo ad autori che non avevano mai fatto fantascienza. Questo probabilmente era semplicemente per avere continuità con il suo peraltro esiguo pubblico. Già se lo leggono in 200, se più chiami gente che questi non hanno mai sentito dire, allora ce la leggiamo in 6. E questo scatenò una vera e propria piccola rivolta all'interno del però minuscolo mondo della fantascienza italiana, e che si trasformò immediatamente in una guerra fra bande interna. Cioè non ce la fecero neanche a coalizzarsi contro un ipotetico nemico, iniziarono a scannarsi fra di loro su chi invece ci sarebbe dovuto essere. Ecco, il fantasy peggio ancora, perché a differenza della fantascienza, che ha una tradizione più lunga, una ormai accettata canonizzazione, insomma, girando per il salone è frequente sentire gente che ti dice non leggo fantasy ma, va bene, che è un po' come non sono razzista ma nasconde inevitabilmente una pregiudiziale. E la fantascienza, insomma, che può essere una cosa seria, è un concetto passato da più tempo, e quindi magari c'è ancora qualche vecchio residuato che sa cosa dice. Nel fantastico era proprio scomparso, erano solo teenager, tutti aspiranti scrittori fantasy naturalmente, con i loro blog che si scannavano a vicenda, massacravano l'editoria, e a volte anche a ragione, perché è vero che c'è stata una fase in cui l'offerta fantasy delle grandi editrici e in particolare di Mondadori, insomma, c'avevamo più che un piede sul trash, però lo facevano senza nessun tipo di prospettiva costruttiva. Allora a quel punto è inutile e dannoso, dicevano tanto è tutta merda, foto degli autori, fra cui la prefatrice del nostro volume, tipo con intorno delle merde, ok, cioè facevano questo tipo di immagini a commento degli articoli, insomma potete capire qual era il livello del dibattito. E dunque si è deciso di fare questi incontri e provare a portare un po' di concetti sul fantasy. Ancora quel salto di cui dovrebbe essere oggetto questo dibattito non l'avevamo fatto, cioè quello che è successo in questo sublime simposio del potere, poi raccolto in questo libro di Tutti i mondi possibili, è stato riflettere con gli strumenti della critica, però con un approccio divulgativo, su alcune questioni, su alcuni topos del fantasy, no? Il viaggio dell'eroe, gli sgherri, la morte, l'oscuro signore, eccetera, eccetera. Quindi è stata fatta una disamina di questo tipo. Ora siamo entrati in una fase molto interessante. Quel libro edito da Nott, e sta facendo fra l'altro un sacco di cose belle, ne è testimonianza. Cioè, improvvisamente, con lo sdoganamento del fantastico e della speculative fiction, è diventato possibile, plausibile anche utilizzarla o leggerla in chiave politica. Quando è morta Ursula Le Guin, tutti si sono accorti che esisteva, e è venuto fuori che quella donna era un'anarchica di lunghissimo corso, sempre impegnata sul fronte dell'anarchismo radicale e sempre in una parola mai simpatia per chiunque, dava sempre o approfittava di qualunque premio, di qualunque occasione pubblica per tirare delle bordate micidiali all'ostracismo che c'era per la letteratura fantastica, al maschilismo, a tutta una serie di questioni prettamente politiche. E effettivamente, riletti sotto quest'ottica, i libri di Ursula Le Guin acquistano un portato politico non indifferente, e forse ritornano ad essere più importanti di quanto fossero stati valutati, perché effettivamente, se tu li valuti come semplici libri fan, Fantasy, si legge Terramare, insomma, si tratta di uno dei molti libri derivativi da Tolkien. Il valore dal punto di vista della storia del fantastico non è elevato quanto il personaggio è stato celebrato. Il personaggio è stato celebrato perché improvvisamente, ora che ci siamo resi conto di un'acqua caldissima, cioè che il fantasy può essere politico, allora lo rileggi sotto quel filtro e dici: oh, aspetta, ma queste opere sono importanti, perché sono le prime in cui tutta una serie di questioni, innanzitutto di genere, ma in generale legate al rapporto col potere, vengono affrontate in un certo modo. E quindi improvvisamente, al di là del drago cliché, la Ursula ridiventa importante. E quel libro viene portato fuori da un altro personaggio che sta avendo un certo rilievo in questo ritorno a un dibattito serio e anche politicizzato sul fantastico, che è Jeff Van der Meer, e anche la moglie, in realtà, meglio a mio avviso come curatore e commentatore che come autore, nonostante ora stiamo cercando di spacciarlo per una roba importantissima, non lo è certamente, però è certamente una persona molto brillante, che ha fatto molto meglio di noi quello che abbiamo fatto noi in piccolo. Cioè, ha capito che nel mondo del fantasy, della fantascienza, della speculative fiction, c'era un potenziale di networking che era del tutto inutilizzato, di lavoro critico che nessuno aveva fatto, di utilizzo politico di quei temi che ancora non era saltato fuori, e quindi ha cominciato a lavorare in questo senso con studi e antologie tutti molto importanti, oppure il recupero di opere politicizzatissime, perché un'opera che Van der Meer ha avuto il merito di riportare all'attenzione anche dei paesi non anglofoni, dove in realtà l'attenzione ce l'ha sempre avuta e è sempre stata reputata importante, è L'Anarch di Alasdair Gray, no? L'Anarch è un'opera uscita tra l'81 e l'85, ma scritta all'inizio già negli anni 60, scozzese, da molti considerata il più importante romanzo scozzese dopo Ivano, che racconta una sorta di transizione fra due mondi, una Glasgow realistica e invece questa Untank, che suona un po' come ingrata, che è una sorta di mondo dei morti, una Glasgow speculare in cui tutte le caratteristiche di Glasgow, la disoccupazione, il clima, il cielo plumbeo, i rapporti sociali bloccati a meno che non si vada a un bar a sbronzarsi, sono estremizzati fino a diventare un mondo fantastico, perché i personaggi hanno strane afflizioni che li trasformano in draghi o in altre cose. Ecco, L'Anarch è un'opera cruciale perché anticipa tutta una serie di temi che oggi sono pappa del New Weird dalla mattina alla sera, e fa saltare le barriere fra i generi, e in generale è ciò che sta alla base di immaginari che in Italia ci siamo beccati di secondo livello. Noi tutti ammiriamo magari Alan Moore o Neil Gaiman, ma senza L'Anarch nessuno dei due avrebbe fatto quello che ha fatto, almeno l'avrebbe fatto in modo molto diverso. Bene, se uno va a leggersi L'Anarch, che può essere considerato davvero una sorta di bizzarro momento di transizione fra fantastico, pre-cyberpunk, fantasy, new weird, c'è un po' tutto là dentro mischiato, e quello è un libro politicizzatissimo, cioè un libro in cui la questione del lavoro, la questione del potere, la questione ambientale, la questione del controllo sui corpi, la questione psichiatrica che poi viene internato in una sorta di manicomio, anche se è perché si sta trasformando in un drago, e la questione dell'affermazione del sé attraverso le arti o le pratiche pubbliche, sono tutti questi temi. Quindi, accidenti, Lanark è uno dei libri più politici in assoluto usciti poi negli anni Ottanta, è come se forse in un momento in cui negli anni Ottanta di riflusso pieno soltanto in queste nicchie di fantastico venisse fuori qualcosa che aveva ancora un potenziale sovversivo. E poi concludo e vediamo un po' di intavolare un dibattito, questo è per lanciare un po' di suggestioni e siccome sta bene mettere un libro al centro di un dibattito nei festival e abbiamo deciso di metterci questo semplicemente perché era quello più recentemente uscito. Non lo so quanto e qual è il carico di immaginario sovversivo nell'impero del sogno. Sicuramente in questo libro parla di un ragazzo che comincia a fare un sogno e poi pian piano inizia a dormire sempre di più per continuare il sogno, dove vive incredibili avventure mentre la sua vita reale è molto noiosa, e fino a poi a una sovrapposizione di piani ci può essere una visione anche escapista. Invece il libro la rifiuta e nasce proprio per rifiutarla, cioè il mio punto di partenza è questo. Molti che l'hanno letto di questo libro dicono il protagonista di questo libro non c'ha voglia di far nulla, è in rotta con la famiglia, si è lasciato la fidanzata, è in rotta con gli amici, va male all'università, non lavora, si rifugia in un sogno, no? In realtà questo libro è volutamente ambientato nel 97 perché la mia idea è che il Mella fa bene a fare così. Cioè, noi nati nella fine degli anni 70 siamo quelli che si sono bel beccati una menzogna mica da poco. Cioè, a noi ci hanno raccontato che impegnarsi o rispettare la legge poteva portare dei risultati. Ok, era falsa questa cosa, va bene? Non valeva assolutamente la pena. Infatti, io sono molto contento di non aver fatto il bravo perché tanto ho visto che chi aveva fatto il bravo ha raccolto uguale, cioè un cazzo. E quindi, qua è il nodo politico. È evidente, d'accordo, è un nodo che trascende anche la politica contingente e la fa politica generale, cioè chi è cresciuto, chi è stato teenager negli anni 90 e è stato l'ultimo a cui ancora si poteva raccontare questa menzogna. E che poi dopo, diciamo, è più che tracimata, è letteralmente esplosa. Il nodo magari è il Mella fa così consapevolmente o meno, perché chiaramente l'atto diventa politico, anche un atto inconsapevole può essere politico visto dall'esterno, però se non lo fa consapevolmente non lo si può considerare pienamente tale. Probabilmente lui una coscienza politica la sviluppa, nel senso che poi decide di non essere il suo scontro con l'uomo in camicia, una sorta di doppio e antagonista presente nel libro, di fatto è sappi che per avere una tua strada dovrai aderire a una serie, peraltro non particolarmente, diciamo, oppressiva, non si deve certo mettere una divisa e andare a combattere sul fronte orientale, però dovrai diventare una persona, dovrai diventare integrato, okay? Dovrai smetterla di essere un disadattato. E lui dice no, ok, no, mi tengo il mio disadattamento, forse si sacrifica, però di fatto c'è un rifiuto. E secondo me, leggendola anche da un'ottica piccolo borghese, perché il Mella è un disadattato certamente, ma è anche piccolo borghese nella inevitabile mentalità e formazione che ha avuto, probabilmente il Mella dice no all'uomo in camicia e commette seppuku, di fatto uccidendolo, perché è un prodotto della sua immaginazione, una, diciamo, scena tipica di questo tipo di narrativa, perché che cosa gli sta offrendo? Cioè, il sogno si è rotto, d'accordo? Cioè, il sogno borghese che poteva corromperti perché offriva qualcosa si è rotto nel momento in cui, vabbè, se mi offri davvero così poco, ma tieniti la tua camicia, d'accordo? E quindi sul finale io credo che il libro poi una nota politica forte la prenda. Però dall'altro lato non è nato per questo, cioè mentre nella stanza profonda io lavoravo per rivendicare specificamente il fatto che la creazione di mondi è un atto eminentemente politico, però bisogna anche un libro di intrattenimento, nel senso comunque l'ho scritto perché è divertente sbudellare gli dèi, ecco, non per mandare chissà quale messaggio, anche perché poi io credo francamente, e questo potrebbe essere un altro bel tema, che se un romanzo cerca programmaticamente di essere politico, di solito fallisce. Cioè i grandi romanzi con un contenuto politico possono avere un intento, una tensione, ma mai una programmazione all'interno della narrativa. Se fai questo di solito diventi pedante e diventano opere sostanzialmente propagandistiche e quindi prive di valore in questo senso. Come ci organizziamo? Si Disa? Speravo di essere l'ultimo. No, vabbè, ma m'aggancio. Grazie a tutti intanto per l'ascolto. Vanni ha tirato fuori 10.000 temi, quindi mi aggrappo a una manciata di essi. Essenzialmente a questo, te parlando dell'impero del sogno ha tirato fuori l'argomento dell'escapismo. Effettivamente, diciamo, nella storia contemporanea della ricezione del fantasy c'è stato un buon periodo in cui il fantasy era visto come una roba da sfigati, abbastanza noto, come un rifugio degli sfigati, che poi è quello che succede anche nel libro, cioè qualcosa che te rifiuti la realtà perché la realtà fa schifo, di conseguenza ti butti in un mondo alternativo e quello fantastico. C'è stato un ribaltamento, il fantasy ha acquisito un valore mainstream, in genere viene detto in virtù di, che cazzo ne so, Games of Thrones, tutti i grandi successi cinematografici. In realtà ci deve essere un motivo anche alla base di questo, perché non è che nascono così, un tizio ha detto dai facciamo Games of Thrones e poi è andato bene inspiegabilmente mentre prima sarebbe andato male. È che c'è evidentemente un elemento sociale, filosofico e sociale, che ha fatto scattare questa cosa. Ed è probabilmente che il concetto di escapismo era una stronzata, nel senso, era una stronzata perché noi possiamo vedere questa contrapposizione tra realtà e fantastico, che generava il senso di escapismo del fantasy, possiamo ribaltarla e pensare, forse c'è stato un momento in cui ci siamo accorti che la realtà era più strana di quello che sembrava, era più fantastica di quello che sembrava. Vuoi nella scienza, non metto a scomodare i paradossi della fisica anche perché non ho la competenza per parlarne e poi finirebbe come una questione troppo semplicistica. La natura scientifica, la natura sociale, la natura filosofica del mondo è molto più complessa di quello che si pensava. C'è un libro recente che non credo sia tradotto, si chiama Iperoggetti di Morton, mi sembra, un filosofo. L'ha tradotto Not. Not traduce tutte ste robe, infatti, e fa bene. Che parla di, appunto, usa questo concetto iperoggetto come un concetto, un oggetto che è così grande e così incomprensibile, anche se concreto, che noi dall'interno non ci capiamo una mazza e di conseguenza ci sembra irreale, fantastico. L'esempio è il cambiamento climatico. È un oggetto da ogni punto di vista, politico e sociale, così complesso che la reazione immediata è il rifiuto o una semplificazione, proprio perché in un cervello non ci sta il cambiamento climatico, è troppo difficile. Non ci sta perché nessuno lo ha capito. Poi lui ne fa tutta una serie di declinazioni metafisiche su cui non sono d'accordo, ma che non c'entrano una mazza. Il discorso invece è questo: se ci accorgiamo che la realtà è più complessa, è più fantastica, è più fuori dalle righe, è più strana di quello che sembra, allora forse gli strumenti della fantascienza e del fantastico diventano un modo per indagarla. Cioè noi riusciamo con questa roba che prima ci sembrava una fuga dalla realtà a scoprire e analizzare meglio la realtà, e questo è un meccanismo strano che però ha una sua evoluzione storica e che in un certo senso ho rivisto anche nel romanzo di Vanni, perché nel romanzo di Vanni la realtà e l'impero del sogno, non a caso, realtà e fantasia si mescolano, si ibridano, ma alla fin fine non è che la realtà vale di più. Anzi, ma neanche il sogno vale di più. In questo Vanni è stato molto onesto. Non mi sarebbe piaciuto se avesse detto più figo il sogno e la realtà. No, sono alla pari. Cioè, e questo è un gran casino. È un concetto che in filosofia ultimamente lo chiamano egalitarismo ontologico. Cioè, considerare tutte le cose come se valessero allo stesso punto di vista. Cioè, anche il soggetto, cioè io che sono un soggetto, mi dovrei dare un minimo di priorità rispetto a quel bicchiere o a quella birra semivuota, se è semivuota. O quella birra del passato, sì, esatto, o il nostro incontro qua dell'anno scorso, eccetera, tutto vale uguale, cioè tutto conta uguale. Perché? Appunto perché il filtro per capire cosa è reale e cosa è reale si sta sgretolando, più o meno in ogni ambito dello scibile. È interessante perché, qua più o meno concludo e poi passo la suggestione ad altri, Perché questo è anche un modo in cui prosegue, la conoscenza si sviluppa. Allora, c'è un libro che ho visto là, sempre edito da Not, di Mark Fisher, che è diventato un feticcio della sinistra più o meno, e che secondo me è altamente sopravvalutato, ma comunque merita la lettura. La sua frase più famosa, la sua citazione più famosa è che non si riesce a immaginare la fine del è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, ovvero siamo così abituati allo status quo che non riusciamo neanche a immaginare, appunto tornando a immaginazione sovversiva, un mondo differente. In realtà questa roba che dice lui vale per qualunque cosa, cioè vale, faccio un esempio tutto in un altro ambito, io sono penso che che il sole giri attorno alla Terra. All'epoca era più difficile immaginare che la Terra girasse attorno al Sole piuttosto che il Sole girasse attorno alla Terra, uguale al capitalismo in realtà. Lo status quo era quello, c'è stata una immaginazione sovversiva che ha portato a immaginarsi la Terra attorno al Sole. E poi ce n'è stata un'altra, ancora più sovversiva forse, quella di Keplero, che ha immaginato che non erano cerchi comodi e perfetti, ma delle ellissi. Questo per dire cosa essenzialmente? Per dire che questi strumenti, questa immaginazione sovversiva, questi strumenti sono il fantastico in generale, ma il fantasy e la fantascienza possono darci possono creare un laboratorio per immaginare come costruire una nuova realtà, il che non vuol dire che vada per forza meglio, perché noi possiamo immaginare benissimo una realtà che fa molto più cagare di quella attuale, non è che ci voglia molto, all'orrore non c'è fine. All'orrore non c'è fine, ma non si conclude l'intervento con questa frase. Penso che... Però è bella, diciamo anche... vabbè, no, all'orrore non c'è fine. All'orrore non c'è fine, però bisogna appunto capire dove mettere la levetta dell'orrore, cioè di qua c'è l'inferno più infernale, di qua c'è un miglioramento. E secondo me lo strumenti del fantasy e della fantascienza possono aiutare a creare un laboratorio mentale in cui fare degli esperimenti per vedere cosa diavolo può succedere. Meglio che all'orrore non c'è fine, questo. Ci sono. Ma allora, io quello che volevo fare più umilmente era, mi ha fatto venire in mente, mi piace tantissimo questa definizione di egalitarismo ontologico che non conoscevo, perché era proprio una cosa su cui sto lavorando, no? Cioè di fatto nei libri precedenti in cui ho affrontato in varie direzioni la questione psichedelica, e chiaramente chiunque ha avuto un'esperienza psichedelica o un'esperienza mistica con altri strumenti sa che si entra in uno stato in cui le cose sono più vere del vero, no? Questo dato è molto interessante, nel senso che perché chi ha fatto un'esperienza psichedelica molto intensa dopo è convinto di aver fatto un'esperienza mistica, tant'è che rompe coglioni ai propri amici per anche centinaia di pagine di carteggio, perché all'interno di quell'esperienza c'è una sorta di nodo, d'accordo? Cioè non è la sensazione che tu hai quando tipo, non so, non dormi da giorni e hai delle allucinazioni, no? Si sa che la battaglia, il campo di battaglia si svolge sempre sul linguaggio. Infatti qual è stato uno dei principali colpi del proibizionismo alla cultura psichedelica, che ora finalmente sta rientrando? L'invenzione del termine allucinogeno. Psichedelico deriva dal greco e significa che allarga la coscienza, allucinogeno vuol dire che genera allucinazione. Si capisce che in queste due parole, che a volte venivano usate come sinonimi, c'è una differenza di connotazione ideologica totale, sono polari in qualche modo, una è valorizza e l'altra denigra. Però insomma, all'interno del campo della visione c'è questa strana impressione, chiamiamola così, che può essere solo un'impressione, ovviamente significa soltanto che probabilmente la tua mente non utilizza normalmente tutto il senso del vero di cui è capace. Questa è la spiegazione materialista più elementare e forse tragicamente quella anche vera. Però c'è questo nodo e dici, madonna, questa cosa è più, in qualche modo più vera. E quindi la dignità del sogno, della visione, del delirio, mi sembra un tema importante. Anche questo secondo me è un tema politico, oltre che, se vogliamo, etnografico, perché si sa che ci sono fior di civiltà considerate a suo tempo primitive, per le quali invece il sogno o la visione o il delirio indotto o naturale è importantissimo. Cioè hai avuto una visione, ma se, dimmi cosa hai visto, perché è fondamentale, no? Oggi, con un sopravvento del materialismo, questo è completamente decaduto. Poi, anche per delle ragioni sensate storicamente, perché è chiaro che nel momento in cui tu legittimi la visione o il sogno, apri le porte a tutti quelli che possono inventarsele, e questo è un bel problema, perché solo tu sai di aver avuto quella visione. Nel momento in cui dici le visioni sono importantissime, domani arriva uno, ho visto questa cosa, e chi recita meglio e passa. Però a me interessava questa riabilitazione dell'esperienza visionaria, e il passaggio mi ha fatto venire in mente, mi è venuto qua quando i nostri amici della Stanza Profonda sono degli ex giocatori di ruolo, e uno dice, si rivedono dopo 10 anni, e il protagonista, cioè la voce narrante, dice a Leia che ha trovato un lavoro a partire dalla sua esperienza nei giochi di ruolo. Almeno potrei dire che sei l'unica che dal gioco ci ha tirato fuori qualcosa, eh? Qualcosa di reale. Guarda che il gioco era più reale del fuori. Ecco, e questa era una sensazione meno apparentemente trasmessa e più interiore. Però quando, non so se avete mai giocato a un gioco di ruolo, quando giocate a Dungeons and Dragons o simili, è tutto al tempo stesso molto astratto e molto concreto. Perché di fatto c'è dei tizi intorno a un tavolo, dei dadi e delle matite che si raccontano delle storielle. Però queste storielle, come se fossero un software in qualche modo, entrano in sincronia e danno origine a qualcosa di estremamente vivido. Cioè i ricordi di cosa ha fatto il tuo personaggio o quello di qualcun altro in una sessione di gioco di ruolo sono in qualche modo ricordi veri, va bene? E per Plotino, io ho citato approssimativamente, proprio come fa Mann, quando non sai abbastanza di filosofia devi parlarne poco, li puoi mettere ma non devi mai approfondire. Le realtà di secondo grado, poi, dice un filosofo, quindi mi correggi se sbaglio, in sostanza, semplificando con l'accetta, per Plotino le realtà di secondo grado, cioè quelle create da noi attraverso l'immaginazione, attraverso un sogno, attraverso una visione, sono più vere di questa che noi stiamo esperendo, perché almeno se ne conosce l'origine, d'accordo? Mentre questa è da cosa è data. Ecco, questo si avvicina molto con il concetto di Maya, no? Di illusione dai Veda, cioè l'idea che questa realtà sia sostanzialmente illusoria, e quindi a quel punto qualunque attività demiurgica fatta da una coscienza nel creare realtà, che sia avendo una visione, organizzando una sessione di gioco di ruolo, diventa effettivamente la creazione di un mondo. Come questo può essere utilizzato politicamente, non lo so, c'è un rischio intrinseco che nella cultura dei giochi di ruolo, secondo me, è perfetto. Avete visto, i meme ora sono di destra, fanno propaganda per Trump, e c'è un problema di destrificazione delle sottoculture nerd, e probabilmente perché questo tipo di sottoculture con un codice molto condiviso, se non intervengono subito nella realtà, si attorcigliano su se stesse. Ecco, questa è la mia paura, cioè il passaggio da controcultura o potenziale controcultura una sottocultura. Una sottocultura, essendo chiusa, avendo un codice, essendo sostanzialmente tribale, è molto facile anche che si fascistizzi a quel punto. Tanti auguri a me. Ok, allora, per rimanere un po' sul discorso del come agire su questo immaginario potenzialmente sovversivo, vorrei parlare di materiale che c'è ovviamente sia nei libri di Vanni, sia nella Stanza Profonda, sia nell'Impero del Sogno, sia nei suoi precedenti due romanzi fantasy che fanno parte appunto di questa specie di trilogia. Però vorrei parlare un momento del saggio di Tutti i mondi possibili e della raccolta Le visionarie. Perché? Perché in entrambi i casi si va ad attuare una sorta di cambio di prospettiva, ovvero la raccolta di saggi parte appunto da questo, dall'idea di demistificare la percezione di fantasy e di fantastico come escapismo, o comunque in generale come materiale per ragazzini, materiale di evasione, cose da cui non esce niente di rilevante a livello critico. Quindi in qualche maniera si applica un sovversivo tentativo di portare sul piano del dibattito, quello serio, quello alto, quello anche volendo accademico, considerando anche che chi ci scrive fa o ha fatto parte anche dell'Accademia, e appunto, e cercare di mostrare in che modo tutti i tipi di narrativa, in questo caso e non a caso la narrativa di genere fantastico, possono proporre delle visioni e del presente e in generale della, del nostro modo di vedere, cioè vorrei quasi dire della costruzione di un'ontologia privata e collettiva, che può essere utile e importante per appunto guardarsi dentro e capire che cosa sta succedendo partendo da un altro punto di vista, cioè un punto di vista fuori, un punto di vista talvolta rovesciato, un punto di vista estremizzato. In questa maniera, nei saggi e nella stanza e nell'impero del sogno, si va appunto a capire in che modo il reale può essere sovvertito, può essere ripensato da un altro punto di vista, e da questo altro non ci sono risposte, ovviamente, non si può dire è prescrittivo, io ti dico che facendo queste cose, leggendo queste cose, tu imparerai a cambiare il reale, la cosa che non ti piace, anche perché, come giustamente ha detto Vanni, quando si inizia ad andare troppo a scrivere secondo una tesi, tutto il discorso rischia di perdere di potenza. Invece è fondamentale mantenere uno spazio di apertura, ovvero uno spazio di riflessione per il lettore. E queste sono cose che avvengono. Nelle visionarie è stata fatta un'operazione prettamente politica, invece, che è quella di selezionare 23, se non sbaglio, racconti scritti in un corso di tempo lunghissimo che va dagli anni 70, no, anche prima credo, fino al contemporaneo, tutti quanti di donne, tutti quanti di fantastico o fantascienza o weird, o insomma quella che viene comunemente chiamata fiction speculativa. Tradotti tutti da donne. Tutti tradotti da donne. Sì, tutti tradotti da donne. Ora, per l'appunto, il racconto che ho tradotto io è l'unico prettamente fantasy che c'è, è forse uno dei più deboli per quello che riguarda quello di cui stiamo parlando. È bellissimo da leggere, però è un romanzo fortemente a tema, per l'appunto, ha una tesi molto chiara e ci arriva in fondo, è gestito molto bene, però quello è, ci sono dei racconti qua dentro, in particolare uno che secondo me è incredibile, si chiama La donna che voleva essere, che credeva di essere un pianeta, in cui si racconta appunto di una signora indiana, parte di una casta la più alta, che quindi ha una vita agiata, ma che comunque deve sottostare a determinate regole, che a un certo punto del tutto naturalmente capisce di essere un pianeta e procede verso questa trasformazione che piano piano sfocia sempre di più verso la sua reale trasformazione in pianeta. Cioè, senza che ci sia nessun tipo di cambiamento nel tono del racconto, nessun tipo di enfasi, questa donna a un certo punto diventa un pianeta. E questo racconto qui per me è molto interessante proprio per questo discorso che è stato fatto fino ad ora. Cioè, non c'è confusione, non c'è distinzione tra i due piani, l'immaginario e il reale, ma anzi i due piani sono del tutto sovrapposti e sono del tutto entrambi credibili. Un altro aspetto positivo delle visionarie è il fatto che non parla di fantasy, di fantastico nel modo in cui lo conosciamo noi, ma include anche narratori di altre culture che a noi sono del tutto estranee. Quindi troviamo appunto questo qui che è di un'indiana, o il racconto di una giapponese che, se lo leggiamo noi, non pensiamo a niente che possa essere fantastico, però per chi conosce un po' di immaginario giapponese invece capisce e entra dentro perfettamente al discorso e si rende conto di quante maniere, in quanti modi si possa trattare il tema. Ovviamente più o meno, e comunque l'operazione è di stampo prettamente femminista, quindi anche in questo caso si va a parlare di cosa? Di quanto le donne possano contribuire, non fare o essere meglio, ma contribuire alla creazione di un immaginario condiviso e ovviamente sovversivo, perché le donne da cose da sovvertire ne hanno tantissime. Mi ricollego ai libri di Vanni per fare una... No, ma non mi sento obbligata, è una cosa che devo dire perché è una cosa che apprezzo tantissimo nei romanzi di Vanni. La protagonista nella trilogia è una donna, un'eroina femminile è una cosa rarissima, e io di questo gli sono sempre veramente molto grata e riconoscente, anche perché non tanto appunto per un discorso di anche le donne possono fare, anche le donne possono essere forti o più forti, ma perché esistono ed è giusto che se ne raccontino le storie. Quindi politico sì, anche in questo senso, anche nel senso di cambiare punto di vista, cambiare ambientazione, e su questo tipo di ambientazione, su queste modalità, riflettere e raccontare un altro mondo possibile. Beh, ti ringrazio per questo, me l'ero appuntato prima, perché ti racconto una storiella. Faccio spoiler, ragazzi, io non ce l'ho problemi con lo spoiler. Tanto i libri è importante come sono scritti, non cosa succede. Allora, alla fine di Terra Ignota 2, la nostra eroina, che ne ha passati 8 e di crude, è stata torturata, sbudellata, ne ha viste veramente di ogni colore. Alla fine è lei, si incarna lei in quanto imperatrice, e quindi di fatto può scegliere che mondo generare. E lei a un certo punto dice generò un mondo senza uomini. Qualcuno l'ha interpretato così in chiave femminista, che sottovalutando il mio nihilismo e pensando che fa un mondo abitato solo da donne, no, fa un mondo proprio senza le persone. Ecco, io questa cosa un po' mi inquieta, perché tutte le volte ho dovuto fare una riflessione profonda su cosa vorrei, no? Perché chiaramente giocando a fare Ailis per più di 800 pagine di Due Terre Ignote, l'immedesimazione c'era, cioè il problema me lo sono posto, no? Tipo, e allora ora che ne hai viste di 8 di crude, hai attraversato le terre occidentali lungo e largo, te ne hanno fatte ogni colore, hai conosciuto l'amore, la morte, la visione e quant'altro, che ne facciamo di questo mondo? E effettivamente devo dire che mi precipito sempre nella mia vecchia bandiera verde-nera in un anarco-ecologismo così radicale che purtroppo per essere messo in atto e prevede l'estinzione degli esseri umani. Ora io abbraccio e rivendico questa mia posizione politica, però capisco che ha dei limiti, ecco, soprattutto dei limiti in termini costruttivi, e il problema forse sta nel fatto che questo tipo di narrazioni non provano a trovare soluzioni effettive rispetto di alterità rispetto alle modalità operative del potere, che tu lo accetti o lo rifiuti, ok? Perché nel momento in cui tu fai un classico arco narrativo fantasy o fantastico, di fatto com'è che si è fatta strada a questa ragazza? Ma insomma, facendo volare le spadate. E se ti chiami fuori e scegli l'eremitaggio, ok? Cioè il rientro mi sembra che per le soluzioni che sono a disposizione oggi sia sempre e soltanto o quello del rifiuto o quello della mistica, però di fatto la mistica, proprio perché esiste solo nella tua coscienza, è un'altra forma di rifiuto. E proprio ieri mi hanno chiesto di scrivere un articolo al volo sul fatto che oggi escono così tante distopie, anche belle, perché succede un sacco di cose interessanti, però effettivamente al Salone del Libro ti eri proprio circondato di distopie, cioè vado allo stand della Giuntina e normalmente mi spinge Memoir sulla Shoah e mi fa: tieni questo, il Terzo Tempio, Tel Aviv sta rasa al suolo da una bomba atomica. A Gerusalemme ho detto ok, vado allo stand Black Coffee, qui c'è sempre narrativa letteraria americana, questo alfabeto del fuoco se ne parla molto, lo giro, in un'America flagellata da una terribile epidemia, cioè verso, stanno uscendo veramente una quantità di distopie incredibili e anche belle, perché per esempio in Italia il Grido di Funetta, Miden di Veronica Raimo sono libri buoni, sono usciti in queste settimane, un mese, sono tutti distopie. Mi viene il dubbio, ok, bene, stiamo vivendo in una distopia, quindi si producono tantissime distopie, forse oggi la speculative fiction deve ricominciare a pensare delle utopie, perché ok, stiamo descrivendo non più dei futuri possibili a monito, quando lo faceva Orwell o Huxley, il mondo nuovo 1984, dice guardate, può diventare così. Bene, ora è così, quindi forse la distopia è un piangersi addosso, bisogna ripartire dall'utopia. No, io dico, a parte buonasera, è sempre un piacere, un onore essere qui, tra l'altro citerò Vincenzo, col quale l'anno scorso dialogammo, il marxista Marasco, perché l'anno scorso finimmo praticamente la conversazione sul fantastico, proprio dialogando su tutti i mondi possibili, citando la frase di Tolkien che diceva: c'è fuga e fuga, la questione dell'escapismo. Il Tolkien, da bravo soldato della prima guerra mondiale, diceva: una cosa è la fuga del disertore, un'altra è la fuga del prigioniero dal campo di concentramento, no? Chi si ritrae dalla battaglia viene biasimato, mentre invece chi scappa da una situazione di imprigionamento noi facciamo il tifo per lui. E ovviamente per Tolkien questo voleva dire che c'era una determinata lettura della realtà che era un carcere, e evaderne non era un atto di fuga ma era un atto di riappropriazione di una visione più ampia delle cose. In realtà, e questo è lo snodo da cui parto riprendendo il libro di Vanni per dire alcune cose su fantasy e politica, una delle cose che io ho apprezzato di più dell'Impero del Sogno è che in un certo senso Vanni preme l'acceleratore sulla frase tolkieniana, perché invece Vanni fa il tifo anche per i disertori, non fa il tifo soltanto, cioè il personaggio del Mella, esatto, quindi il perché questa cosa è interessante, cioè il personaggio del libro di Vanni è una persona che apparentemente appunto è un perdente, un loser, uno che si tira fuori, un perdigiorno nel senso letterale del termine, e tutto il libro è giocato sull'ambiguità se questa sia appunto una fuga dalla realtà rifugiandosi in una sorta di sindrome di Peter Pan, o invece magari, incredibile a dirsi, l'assunzione di una cerca, cioè di una responsabilità maggiore, no? Per cui lui di fatto potrebbe essere una sorta di San Giuseppe che deve accudire questa bambina messianica. Allora, su fantasy e politica, io faccio il critico letterario, quindi per me una delle battaglie che facciamo anche con l'Indiscreto, che è stata la battaglia anche di tutti i mondi possibili, è sempre innanzitutto il fatto che il senso della prospettiva ci libera dal provincialismo e da delle letture che sono un po' delegrate, nel senso che in realtà il valore politico, cioè di intervento sulla realtà del fantastico, è antico quanto la letteratura. Io vi volevo fare tre esempi per arrivare al presente. Primo, l'Odissea di Omero, insieme all'Iliade, i due testi su cui era forgiata l'identità del mondo antico. L'Odissea è tutta una serie di utopie e distopie, cioè Ulisse passa, è tutto un libro scandito da quanto e come viene accolto in dei paesaggi assolutamente fantastici. Non c'è neanche una Ulisse non incontra mai altri greci, li incontra Telemaco che va a Sparta, va a cercare il padre, ma Ulisse vive dei tipi di accoglienza diversissimi, dalle dee che vogliono fare l'amore con lui, Circe più pericolosa, Calipso meno anche se lo tiene 7 anni, all'accoglienza quasi divina dei feaci, che hanno le navi che si pilotano da sole, hanno il navigatore, no? Sono un regno magico, che lo accolgono senza neanche chiedergli chi è, lo lavano, lo fanno mangiare, quando lui si mette a piangere non gli chiedono nulla, quando sente la rievocazione della guerra di Troia, a Polifemo, che è ovviamente una distopia, perché anziché essere uno che dà da mangiare agli ospiti, se li mangia agli ospiti, no? Letteralmente. Tutta la vicenda è un commento alla legge greca della xenia, l'accoglienza dello straniero, talmente tanto che tutto si gioca alla fine quando Ulisse, re mendicante, torna a casa non riconosciuto dai proci che stanno distruggendo tutto e fa giustizia. Voi ditemi se oggi il tema dell'accoglienza, il fatto che, come dice come dice Nausicaa, i profughi sono mandati da Zeus, è un tema politico o non è un tema politico? Bene. La Tempesta di Shakespeare, ne abbiamo parlato da poco nell'Indiscreto. La Tempesta di Shakespeare è l'ultimo libro di Shakespeare, l'ultima opera che Shakespeare fa in teatro, ed è il suo congedo dal teatro. Cioè poi lui scriverà anche dopo, però nel Mago Prospero Shakespeare sta parlando di sé, perché il mago che cosa ha in comune con il poeta? Che mentre di è l'attore, che quello che dice succede. Per un breve momento di condivisione, come nel gioco di ruolo, no? Te dici drago in teatro e il drago c'è, gli spettatori ci credono. Questo mago, che si potrebbe vendicare perché è stato cacciato dal fratello, come nel Conte di Montecristo, si potrebbe vendicare, il mezzo della vendetta in questo caso non è la ricchezza, non è un tesoro, ma è la magia. Lui è un mago esiliato, il fratello che gli ha fregato il regno passa con una nave vicino alla sua isola, lui lo imprigiona con gli incantesimi, inizia questa vendetta lentissima pensata per umiliare il fratello, umiliare i suoi servi perché li vuole vedere in ginocchio distrutti, sta parlando con l'elfo Ariel, che è lo strumento dei suoi incantesimi, e gli dice: come sono mio fratello e gli altri? Ariel gli dice: sono lì che piango fuggono disperati, folli, ciechi di follia, e lui gli dice: se voi li aveste visti vi sareste commosso. E improvvisamente Prospero si gira e gli fa: te pensi questo, spirito? E lui dice: il mio cuore si intenerirebbe se io fossi un uomo. E improvvisamente Prospero decide di tornare uomo fra gli uomini, perdona il fratello e decide di andare a vivere e morire con gli altri esseri umani. Per me questa è una scena commovente, perché oltre ad essere una scena metaletteraria, cioè la tua creazione artistica ti dice una cosa che te autore non avevi pensato prima, dice un'altra cosa, e cioè che è il fantastico che giudica l'ordinario, sono gli elfi che ci insegnano a essere uomini, no? È Ariel che dice, che ricorda a Prospero che cosa vuol dire essere umane, essere esseri umani. Il Signore, e poi chiudo su queste due cose brevemente, cioè per le due opere più importanti del Novecento, del fantasy del novecentesco, non sono pari per qualità, però diciamo sono come due passaggi, cioè Il Signore degli Anelli di Tolkien, che è appunto, come dicevano sia Vanni che Silvia che Francesco, non è un libro pensato sistematicamente a tavolino, come un libro che ha una morale previa, però è tutto un libro incentrato su qual è la natura del potere, e il gesto fondamentale e sovversivo del Signore degli Anelli, nell'Ibsen degli Anelli, è che il protagonista in questo caso è una cerchia rovesciata, perché anziché andare a prendere il Santo Graal o il Vello d'Oro, te il talismano ce l'hai fin dall'inizio e dici: lo restituisci al mittente, no grazie, non mi interessa. Altra vicenda. E non è un caso che questo sia stato uno snodo che poi sia stato tirato per la giacchetta da tutte le parti, perché questo è un nodo simbolico, immaginativo, potentissimo, no? Ora, la serie del Trono di Spade. La serie del Trono di Spade ormai è evidentemente esplicita nei suoi connotati politici, cioè evidentemente gli sceneggiatori stanno utilizzando gli estranei come una metafora del cambiamento climatico, no? Il mondo si fa la guerra, mentre invece dovremmo metterci insieme contro un nemico molto più spietato e molto più indifferente, che non guarda in faccia a nessuno. Martin non ha scritto questo così, in questi termini, ma è impressionante, per quanto mi riguarda, il fatto che una vicenda scritta nel 92, che ha il centro una barriera, e chi sta da una parte e chi sta dall'altra, e i due unici leader politici credibili, cioè Jon Snow e Daenerys Targaryen, sono gli unici che, dove gli altri vedono delle opposizioni polari, schiavi liberi, bruti, popoli da quest'altra parte, vedano sempre una soluzione terza, no? Ghiaccio e fuoco, cioè vedono una soluzione terza e si incontrino, è a sua volta una cosa importante. Chiudo dicendo questo rispetto alla questione del... cioè, l'anno scorso Vincenzo diceva una cosa, mi dispiace te lo rubo, forse volevi ridirlo, ma che a me ha colpito molto, cioè di fronte alla domanda che faceva Andrea del valore politico del fantastico, Vincenzo da par suo disse che tutto il fantastico è politico, nel senso che l'immaginazione è sovversiva di per sé, io direi questo, perché ti libera, per il semplice fatto di accedere all'immaginazione, te spezzi la catena della necessità, no? È come direbbe Montale, l'anello della catena che non tiene. E questo è significativo, cioè ti permette di per sé l'immaginazione è un atto sovversivo. Innanzitutto proprio perché te, ribaltando le cose, le guardi in un altro modo. Tolkien diceva, citava Dickens, che diceva, no, che la fantasia è come se te entri in una sala del caffè dove c'è scritto coffee room dall'esterno, se lo guardi dall'interno diventa morrefoc, e improvvisamente la parola morrefoc evoca qualcos'altro, eppure è sempre coffee room. Ma al netto del semplice del guardare le cose da un'altra prospettiva, è proprio il fatto che te aggiungi, sfondi appunto il limite di quello che te pensi che sia l'unico modo di poter guardare, vivere e muoverti nel mondo. Per questo, e chiudo, è significativo che sono gli anni in cui si celebrano i centenari di Marx. Marx era un grande commentatore dell'Utopia di Tommaso Moro, che è uno dei grandi testi sul fantastico del Rinascimento, e negli stessi anni Oscar Wilde gli dava ragione dicendo che una mappa che non contenga il continente di utopia non merita neanche di essere guardato. È sempre difficile dire qualcosa dopo Edo. Vice, vuoi aggiungere qualcosa? Sei stato il primo marxista in Italia a occuparsi di fantasy. io tra l'altro. Ma io grazie, ma io non c'ero nemmeno in questo modo, grazie, mi fate parlare per affetto. Ma no, in realtà dicevo anche una cosa molto più di destra, tra l'altro, cioè di quella che Edo mi ha fatto dire. Cioè, allora, mi collego così a quello che dite, non so se, sperando di fare che sia di stimolo, cioè secondo me la posta come l'avete presa così di petto, diciamo, riformula la domanda che sta dietro a quello che avete detto, cioè in che modo o il fantastico o in generale il genere fantasy può fare attrito con le ali in senso sovversivo è anche troppo diretto, cioè non è che è mal posta perché è sbagliata, non sa, è difficile rispondersi così direttamente. Direi da un lato è anche errata, nel senso che comunque parte dal presupposto, cioè quello che gli sta dietro è che c'è qualcuno che ha detto che è invece una fuga, che condivido la storia, diciamo così, che ha fatto Vanni, e aggiungo che è ancora attuale, nel senso appunto non più dell'anno scorso Dal Lago ha pubblicato un libro di nuovo criticando tra l'altro un po' all'inizio, mischiando tutto, cioè come dire, facendo da Tolkien all'X-Men un unico calderone, poi criticando Tolkien, diciamo così, con l'idea che c'era tra l'altro tutta un'idea, come dire, di un'ideologia cattolica che lui voleva contrabbandare, ma che il cui effetto è appunto distrarre. E la cosa bizzarra, cioè anche lì la cosa strana di questa accusa è che sembra che se uno non stesse lì a leggere Tolkien sarebbe fisso su Gramsci, che non è così, io non so come dirlo alla critica militare, però non è. E tra l'altro non si capisce allora perché uno dovrebbe leggere l'Odissea, cioè se lo scopo di un libro è capire come fare la rivoluzione, purtroppo l'Odissea sarebbe tra i libri da cestinare, cosa ovviamente Dal Lago si vergognerebbe un pochino a scrivere un libro contro l'Odissea. Quindi da un lato è che l'accusa, cioè la domanda a cui questa, la domanda che sta dietro questa cosa risponde è un po' farlocca, dall'altro c'è che che è difficile in qualche modo suddividere tra appunto tra il fantastico, e sicuramente ha un potere in qualche modo, come dire, come il gesto fantastico ha un sé per sé, e la narrativa italiana è piena da Calvino in poi anche, no, di come dire, di per sé di mettere in discussione l'esistente. Un conto è se il fantasy inteso come creazione di mondi, non so quale potrebbe essere una definizione, è invece uno strumento utile, per esempio, a fare come fa la fantascienza, sempre ammesso che la fantascienza faccia questo, di come dire, di estremizzare alcune parti e quindi criticarle. Io però mi attesto appunto, quello che volevo, per tornare all'inizio, la mia posizione era più conservatrice, nel senso che era non tanto che il fantastico è di per sé liberatorio, ma quanto che il mito ha un potenziale liberatorio, lo dico da banale paziente junghiano, cioè che il libro di Vanni è un libro dove, come dire, perdendosi in questo mondo di perdigiorno, diciamo così, perdendosi nelle sue fantasie, lui, il protagonista, il Mella, fa un incontro con l'ombra, appunto, per dirlo in senso junghiano, e solo allora riesce a prendersi cura di sta bambina. A parte, io continuo a sostenere che la mia lettura del libro di Vanni è che sia un'autobiografia letteraria di se stesso, però lo stesso autore non è d'accordo, quindi me lo tengo per me. Però, però insomma, quindi anche lì è quello, insomma, in realtà è quello che dicevi te, Edo, cioè che come dire, ogni quello che è utile, diciamo così, che è sempre riattivabile come elemento, chiamiamolo così, contro, come si dice quando una cosa è scontata, diciamo così, ecco, che c'ha il fantasy, che c'ha il Signore degli Anelli, che c'ha qualunque racconto, è esattamente come dire, il farti capire qual è un conflitto, dico interiore, è una metafora così che ormai siamo abituati a usare, non so se, che uno sta affrontando, e cosa si deve fare per cavarne le gambe con estrema dignità, diciamo così, come, non come un disertore in questo caso di fronte a questo. E questo è appunto sul dibattito, faccio per dire un tema che riguarda il destra e il sinistra del signor Agnelli, se la figura di Ewin è un conservatorismo di una donna ancora che torna da Faramir e non farà mai più la guerra, oppure invece è una donna guerriera che è emancipata, il vero conflitto è: ma una donna che appunto oltrepassa tutto quello e cambia, aiuta un'eventuale altra lettrice a dire oi boh, ecco come si cambia, oppure è una versione del cambiamento reazionaria, che aiuta, diciamo così, a non fossilizzare, ecco, a non allegorizzare anche poi il risultato dell'autore, che appunto chiaramente mentre scriveva di Ewen probabilmente non stava a pensare che effetto ha sulla donna contemporanea. Vabbè. Dico una cosa velocissimissima, che è questa, proprio solo su questo come elemento. Due immagini, una sul Signore degli Anelli, cioè il Signore Anelli è tutto il punto finale del Signore Anelli non è Frodo, cioè la via della mistica in qualche maniera che finisce, ma è Sam è un appassionato di elfi e draghi all'inizio del libro, è un giardiniere e il padre giardiniere gli dice elfi e draghi, inizia così il libro, cavoli e patate sono quello che aspetta uno come te, non ti impicciare degli affari degli di quelli più grandi, altrimenti tutto il libro è che effettivamente Sam torna ai cavoli e alle patate. Il libro finisce con lui che si mette in braccio la bambina, quindi è l'assunzione della vita adulta, ma avendo visto gli elfi e i draghi. Cioè la grande questione è: puoi vedere veramente i cavoli e le patate se non hai visto, se non li vedi nell'orizzonte gli elfi e i draghi? E la questione si lega, qui chiudo, Neil Gaiman, che Vanni citava, inizia uno dei suoi libri, si chiama Coraline, una fiaba, citando una frase di Chesterton proprio su questo, che a inizio Novecento diceva, che è una frase che poi viene attribuita a tanti altri ma invece è di Chesterton, che era che le fiabe non insegnano ai bambini che ci sono i draghi, perché questi bambini già lo sanno nascendo, come diceva Flannery O'Connor, chiunque è sopravvissuto alla scuola media ha materiale sufficiente per una vita narrativa, ma diceva i bambini che i draghi ci sono lo sanno, quello che non sanno è che i draghi si possono sconfiggere. No, io volevo solo riprendere il vice, visto che mi chiamava in causa direttamente. No, e vabbè, è sempre bene se i libri possono essere letti in molti modi, di solito è un segno di qualità, quindi sono contento. È molto difficile per me vedere l'Impero del Sogno, mentre ovviamente nella stanza profonda e il muro di casse, gli interessi in comune non ne parliamo, ci ho messo tantissimo vissuto diretto, anche se più sono diventato esperto e più ho cominciato a ibridarlo, perché poi semplicemente è anche una questione di esperienza narrativa. Tutti i libri partono da esperienze personali, quando hai un'esperienza di molti romanzi scritti cominci a sapere dove girare le rotelle, cambiando anche le cose quasi completamente senza che però si rovinino, ok? Questo è un po' un processo che ho imparato. Lì però c'è stata un'esigenza molto specifica, perché quando ho capito che questo libro poteva essere una giunzione fra il fantastico di Terra Ignota e i libri realistici che ho scritto, ho detto ok, allora vado negli interessi in comune, il mio primo romanzo, da cui vengono anche i protagonisti, il Paride della Stanza Profonda e Jacopo Gori di Muro di Casse, vengono da quel primo libro in cui avevo raccontato le avventure, ma soprattutto le disavventure di un gruppo ragazzi di uno dei bar più loschi del Valdarno, e ovviamente erano quasi tutte storie vere, anzi alcune le ho dovute un pochino edulcorare perché erano troppo pese per un libro. E ho detto vabbè, chi posso usare degli interessi in comune? Ho preso il Mella, perché era un personaggio maggiore degli interessi in comune, perché non era stato ancora utilizzato e perché era proprio adatto a questo libro, no? Era uno che viveva in uno stato di rifiuto costante. E io in realtà gli alter egos sono io e sarei Jacopo Gori, anche se ormai sono molto distante anche da Jacopo Gori. Il Mella era questo mio amico Masoni, che eravamo sempre insieme a far danno, però avevamo una visione diversa. Io lo sai, non sono, anche se poi dai miei libri a volte emerge una visione abbastanza nihilista, io non sono nihilista, no? Cioè anzi sono piuttosto, io credo nella rivoluzione delle coscienze, io sono ancora convinto che mettere l'LSD negli acquedotti possa portare a una nuova Eleusi, quindi figurati se non sono ottimista. Però lui invece aveva già un'attitudine molto più punk di me, no? Even more punk than you, cos'erano i NoFX? Ecco, eravamo punk quando avevamo 14-15 anni, lui era più punk di me, no? Era quello che proprio, cioè tipo dopo essersi ubriacato si buttava sotto la doccia fredda perché così magari muoio, ecco. Io invece dopo essermi ubriacato mi mettevo a letto, c'era questa differenza proprio ontologica fra me e il Mella, che poi è diventato il protagonista di questo libro. E mi voglio cogliere l'occasione perché c'è stata una lettura a proposito abbiamo parlato di esperienze liminali e nichilismo rifiuto. Una recensione che io ho subito abbracciato ipotizza una cosa. Chi non ha letto il libro sappia che questo ragazzo, per continuare questi sogni, per continuare a sognare, perché il sogno va avanti anche quando lui è sveglio, quindi lui si rende conto che deve passare sempre più tempo a dormire per poter continuare l'avventura fantastica che si svolge nel sogno, incasinando sempre di più la sua vita nella realtà, perché già tutti lo accusano di essere un nulla facente, figurati se comincia a dormire 12, 13, 16 ore al giorno. Poi dopo un po' il sonno non gli viene, quindi prima ricorre alle goccette della madre, poi tutti questi strumenti non sono sufficienti, quindi passa a oppio e darkene, quindi barbiturici maggiori e oppio. A un certo punto, quando c'è una fase importantissima del libro, lui è giorno, non può andare a casa perché verrebbe svegliato dalla madre e non ha più una casa a Firenze perché si è lasciato la fidanzata, e lui la cosa fa? Si mangia due darkene, una palletta d'oppio, e si nasconde nelle siepi del giardino dietro della Biblioteca Nazionale. Lì, in mezzo a queste siepi, ragni, tutto graffiato, si addormenta e fa una parte del sogno molto importante. Ecco, e questa recensrice ha ipotizzato che lì il Mella sia morto, e che da lì in poi sia una specie di libro tibetano dei morti, cioè che il resto del libro non sia lui che continua le avventure, in realtà lui è stato tristemente ripescato dalla misericordia cadavere dentro a una siepaccia della Biblioteca Nazionale, e da lì tutto è continuato soltanto nella sua immaginazione, proprio nel bardo Todol, no? Quella zona liminale che c'è fra la vita e la morte, e in cui ipoteticamente si affrontano effettivamente una serie di demoni. Cioè il libro tibetano dei morti è proprio una serie di indicazioni sul da farsi, cosa dire, come affrontare ognuno dei demoni che ti arriveranno e cercheranno di precluderti l'accesso al samsara per ributtarti nel cerchio delle nascite e delle morti. E infatti sì, in realtà so che tutto questo è un sogno, io sono morto dentro una siepe della Biblioteca Nazionale, spero di essere stato sepolto a Modino, vado a svegliarmi. Beh, io direi di aprire il dibattito, devo andare in bagno tassativamente, bevo 30 bitrini, però continuate. Apriamo le domande soprattutto a Vanni adesso che è in bagno. Se volete fare qualche domanda a Vanni possiamo rispondere. Io dico una cosa a Vici, allora viene nel frattempo, prendo questo mentre aspettiamo Vanni perché così gli potete fare domande, e a Edoardo, che prima quando ti hai parlato del diverso, secondo me un nucleo interessante è qua, nel senso se io pretendo di scrivere una roba realistica, io pretendo di dirvi com'è la realtà. Questo meccanismo, che spesso è stato proposto, funziona meno adesso, perché la realtà è la natura relazionale della realtà, in cui io credo anche da un punto di vista ontologico, con filosofi buddisti molto più sapienti di me, non ci permette di dire o di pensare che una cosa sia in un determinato modo e basta, e sia inscatolata in quel determinato modo. Quindi il fantastico, da Omero in poi, come hai detto giustamente, offre questo dispositivo in cui te sei costretto ad affrontare qualcosa di così strambamente diverso che ti tocca poi provare a immaginare qualcosa di distaccato. Vanni è ancora in bagno. Volevo aggiungere una cosa anch'io, tornando su una nota strettissimamente invece politica, e cioè che oggi è la giornata contro l'omobi transfobia, e in questi libri qua c'è un potenziale di queerness, di apertura, di mescolanza, di liquidità, di chiamatela come vi pare, incredibile, ed è proprio dovuta alla facoltà e alla possibilità di immaginare schemi che vanno oltre le prescrizioni, le norme del reale. Ci pensavo prima, pensavo appunto a cose che succedono nei romanzi di Vanni, a cose che succedono nelle visionarie, in generale è possibile. E già questo rende, torno a dirlo, sovversivo, visionario, altro ma presente tutto un immaginario che sembra non dato nella nostra realtà normata. Se avete domande, se sono per Vanni io gliele sintetizzo all'orecchio e poi lui risponde, se sono in generale fatele, se no cioè si va tutti in bagno. Potevo fare benissimo. No, arriva il microfono, ok, perfetto. Allora, no, io volevo dire, in relazione a quello... Io volevo dire, in relazione a ciò di cui si era parlato prima, ovvero la differenza tra psichedelia ed allucinogeni, e come psichedelia sia termine che porta invece a un qualcosa di molto più ampio, tutto il genere e tutto il resto, come questo sia foriero di gravissimi, secondo me, fraintendimenti. Ovvero, i fraintendimenti stanno che non può essere considerata una terapia. Voglio dire, nel momento in cui uno fa riferimento all'esperienza sciamanica, sta riferendo a qualcuno che per interposta persona fa quel viaggio, quell'esperienza e tutto il resto. Non è che e poi dopo al ritorno, in qualche modo dialogando, indicando delle cose, fa sì che la persona guarisca, ma non che la cosa di per sé abbia effetti curativi. Questa qui era una domanda che riguardava tutti. L'hai fatta proprio quando l'unica persona giusta per rispondere, perché l'unico che secondo me è contrario a quello che hai detto è in bagno. Però, io sono anche d'accordo. Però Vane ti risponderebbe che è solo una barbarie dei tempi che è preso, perché all'epoca... Varni ti avrebbe risposto che è solo un segno della barbarie dei tempi che ti costringeva ad avere lo sciamano. Adesso non c'è più bisogno dello sciamano, eccetera, eccetera, perché in fondo è un tecnicista mastodonte o il Santoni. Credo piuttosto sia proprio un errore sociologico e antropologico. Io riporto quello che sono detto dai Santoni. No, per la tarefero non rispondo, però no, vabbè, facciamoglielo dire a lui. Ci mancherebbe. Allora, io me l'ero anche segnato un po' di domande, ma poi sono già stato risposto, e quindi io non l'ho mai letto Il Signore degli Anelli, non ho nemmeno presente chi è Sam, in verità. Però se all'inizio non è Elfi e Draghi per te, patate, lui però va Elfi e Draghi, e alla fine però ritorna a patate, vuol dire che il potenziale sovversivo che c'è dentro, quantomeno la portata rivoluzionaria, non c'è in quella lezione lì che citavi come esempio finale, a discapito di quello che dicevi prima, invece, insomma. Cioè, con tutto che... No, beh, secondo me bisogna intendersi su che cosa intendi per sovversivo, perché il Sam alla fine è diverso dagli Hobbit che lo circondano. Esatto. Cioè, il punto fondamentale nella questione lì dell'immaginazione è che Sam non fa i cavoli e le patate come le fanno gli altri, cioè non si relaziona al quotidiano come ci si relazionano gli altri Hobbit. E questo è il punto. Cioè, Tolkien, perché tanti dicono Tolkien ha fatto l'elogio della vita campestre, del quieto vivere, della vita ma invece no, perché Tolkien inizia il libro dicendo che gli Hobbit, la maggior parte degli Hobbit, sono i tipi di persone che amano leggere i libri che dicono loro le cose che già sanno. Questo non è un complimento. Cioè, la maggior parte degli Hobbit non sono piccoli fisicamente, sono ottusi. Non è un caso che gli unici Hobbit, e questo è il paradosso dei Signori degli Anelli, che salvano la contea, sono gli strani che la lasciano. Frodo, Bilbo, Merry, Pipino, sono gli unici che torneranno con degli strumenti, proprio perché hanno visto gli elfi e i draghi, che gli permetteranno, nel momento in cui la contea viene invasa da un male banale, che non ha neanche la tragica grandezza di Sauron, che è il male che infetta la contea con sciarchi, eccetera, di tenergli testa. E il Gandalf stesso non entra nella contea occupata da questa sorta di piccolo regno meschino. Gli dice: voi avete fatto forse tutto questo viaggio perché adesso ve la poteste cavare da soli. Quindi invece per Tolkien c'è un modo di essere strani e altri, ti faccio un altro esempio. Lo Hobbit inizia di Tolkien con una canzone dei nani, in cui i nani cantano un canto che parla di draghi e di tesori, e Bilbo improvvisamente tutte le cose del quotidiano che ha intorno, vede il fuoco del camino e pensa al fuoco del drago, vede le stelle e pensa ai gioielli degli elfi, cioè il noto ti parla dell'ignoto, va bene? Nel viaggio di ritorno gli elfi cantano una canzone in cui, l'impero sviene, in cui tutto, in cui le stelle, in cui l'ignoto ti parla del noto, no? Il fuoco del cammino è più splendente dell'oro, le stelle sono più splendenti delle gemme, cioè devi fare un lungo viaggio per guardare davvero quello che avresti davanti agli occhi tutti i giorni. Questa è una sfida conoscitiva importante. Vanni, c'era una questione per te, magari te la rifà Andrea, più o meno. Però non ho sentito la domanda perché ero fuori, tu me la devi rifare. Usa il microfono perché già da qui non ti sento. Dell'escapismo, no? Alla fine, secondo me, è stupido farsi rubare questa parola come qualcosa di negativo, senza appropriarsene, invece prenderla per buona, come è stato fatto in passato per tante cose. Perché? Perché noi spesso parliamo, per esempio, dell'estasi. In realtà l'estasi è un qualcosa che ha a che vedere con l'escapismo. Per esempio l'entasi, no, nella misura in cui non c'è una fuga da se stessi, un uscire al di fuori. Io voglio dire che ci sono degli spazi per riprendersi, per risemantizzare questa parola, cosa numero uno. Cosa numero due, secondo me invece nel fantasy c'è una visione politica più generale, non in senso partitico, e ve lo dico per farmi anche contraddire, però da due punti di vista. Il primo punto di vista è: noi prendiamo diciamo Tolkien, un autore di genere, e prendiamo un autore invece autoriale qualsiasi, anche io non l'ho letta, l'ultimo testo tuo nome che è stato fatto, che ha una sua autorialità. Per come è fatta la collana, allora, la Haren, eccola lì, cioè, sta parlando di te. Okay. Sì, era un esempio, io ancora non ho avuto il piacere di conoscerlo. Okay. Quindi abbiamo Tolkien e Karen De Martin. Esattamente. Pinto. Allora, quello che voglio dire io è questo: se noi andiamo a vedere quali sono i racconti, i sistemi assiologici, i valori, i simboli, l'eroismo e tutto il resto all'interno della narrazione di Tolkien, se vanno estrapolate queste cose, poi noi magari nemmeno le estrapoliamo perché con relativismo facciamo di tutta una narrazione sti cazzi, però se le vai a estrapolare sono valori tradizionali, e i valori tradizionali hanno una componente politica, non è che sono indifferenti. In un autore per esempio contemporaneo, così autoriale, è molto molto più difficile trovarsi in presenza di un sistema anche così articolato di valori tradizionali. Quindi anche se non sono dei valori in positivo, ma magari sono disordine in ipotesi, comunque hanno una valenza politica. Il secondo punto, finendo, è questo. Vorrei prima di tutto dire che nel caso della smettere di fare distopie, un'utopia c'è, cioè, secondo me è bella, che è l'isola di Huxley. Huxley prima lo citavi te, e c'è tutta una parte interessantissima. La seconda cosa è che ci sono libri che invece sono al contrario di tradizionalisti, ma invece progressisti. E qui da una parte possiamo prendere Tolkien, che io per provocazione considero conservatore e tradizionalista, e per esempio Bolaño, che invece è un autore estremamente progressista da molti punti di vista, secondo me. Mumble. Faccio notare che ha barato, cioè, la domanda era una domanda carteggiosa su cui abbiamo litigato mille anni, lui ne ha fatte altri due adesso. D'altro, okay. No, allora, senti, sul core set di valori alla base di un'opera, questa è una super questione che chiaramente trascende il fantastico, no? Io credo semplicemente che nel fantastico e nel fantasy, proprio perché si gioca con gli archetipi, i valori latenti siano più visibili e spesso schematizzati in emblemi, ok? E effettivamente e il Signore degli Anelli, ma è molto difficile fare una qualunque opera ambientata in un medioevo romanticizzato, mettiamola così, senza creare emblemi di valori tradizionali, d'accordo? È più facile paradossalmente nella fantascienza. e un'opera realistica, leggiamola come se tutte le opere fossero fantastiche, d'accordo? Quindi tutte le opere sono la romanticizzazione di un'epoca passata. Siamo fra 1000 anni e il libro di Karen, o il mio o quello di chiunque, viene visto alla luce degli emblemi che propone. E probabilmente le tensioni sarebbero anch'esse poco progressiste, d'accordo? Cioè, non mi sembra che, cioè, qualunque epoca, una volta che l'hai storicizzata e romanticizzata, possa proporre chissà che visione progressista, proprio perché sono i processi di storicizzazione e romanticizzazione che sono per forza conservatori. Poi, ovviamente, e per fortuna, quando un'opera è molto grande, improvvisamente va oltre se stessa, no? Cioè si trascende completamente e sono possibili letture anche diversissime, no? L'esempio forse più emblematico per me è quello, non c'entra nulla, eppure c'entra sempre, quello di Kafka, no? Kafka, oltre a trascendere la distinzione fra autoriale e fantastico, perché chiaramente anche letteratura fantastica, lui fa qualcosa che forse nessun altro autore nel Novecento ha fatto, cioè lui fonda e sistematizza una mitologia da solo di cui tuttora non siamo pienamente venuti a capo, no? Però questo è un problema di grandezza dell'opera, d'accordo? E non è un problema di sistema di valori latente, perché di fronte a una storicizzazione mi sembra che qualunque sistema di valori rischi di essere non progressista, ecco. I momenti di rivoluzione, si sa, sono brevi rispetto ai momenti di restaurazione, no? I salti in avanti della coscienza collettiva avvengono in modo rapido e poi dopo ci sono degli enormi riflussi, no? Si fanno dei salti in avanti e poi dei riflussi all'indietro, a volte anche dei salti all'indietro. Prego. Ovviamente questo. Prima ti hai parlato di come i miti in realtà ci avessero un effetto anzi liberatorio, al contrario. Ora Vanni ha riutilizzato la parola mitologia, ok. Io volevo fare presente questa cosa, ma per ragionarci, i miti sono comunque degli arofanie, i miti sono la base dei riti, i riti sono il contrario della liberazione. Guardate che non vanno prese una per volta le facce di una medaglia o di un dado, ok. Non è vero che i miti siano così liberatori. Il mito è quello che accade in Illo Tempore e che poi viene ripetuto e diventa... No, ma però, scusa Andrea, no, io direi un'altra cosa. Innanzitutto stiamo parlando di... Cioè, i greci non credevano a Polifemo come credevano e in che misura a Pallade Atena. Cioè, innanzitutto, cioè, stiamo parlando ovviamente di racconti in questo senso di mito, cioè non di, almeno nella mia prospettiva, la mia prospettiva di opere che sono godute, non di opere che sono credute. Questa è la cosa fondamentale dell'esperienza letteraria. E dico solo questo, cioè sulla questione tradizione, progressione, eccetera. Cioè, poi tra l'altro bisogna stare attenti perché c'è tradizione, tradizione e c'è conservatorismo e conservatorismo. Cioè ci sono dei conservatorismi salutari dal punto di vista dell'immaginazione. Utilizziamo i Sognanelli sempre perché è una stanza nella quale ci muoviamo tutti bene, perché è proprio un immaginario condiviso. Aragorn, da un certo punto di vista, è un ritorno. È il ritorno del re, il titolo del terzo libro. Però in realtà, nella prospettiva di Denethor, Denethor è il sovrintendente della città che si dà fuoco perché l'Occidente brucia, e sembra, no, l'immagine di questo, cioè sembra, è fra Mishima e quell'intellettuale francese, no, che si uccise a Notre Dame perché appunto l'Occidente marciva, ne parlavamo con Francesco, no? È appunto un'immagine di conservazione come mummificazione del passato, per la quale apparentemente un ritorno, cioè Aragorn, che è il richiamo a una cosa molto antica, è un futuro ed è un progresso che lui non è in grado di accettare. Per cui in realtà anche l'immaginario, per così dire, conservatore è pieno di dinamiche complesse. Cioè il Don Chisciotte di Cervantes è tutto giocato su questo. Cioè Cervantes stava reagendo a un mondo che non capiva più. L'antica cavalleria è morta, il mestiere delle armi è andato a quel paese e immagina il primo cosplayer della storia che si aggira per il mondo, e tutto il libro è giocato sulla parodia del fatto che lui legge la realtà in un modo che fa ridere, perché vede una regina in ogni prostituta e un gigante in ogni mulino a vento. Ma la cosa interessante è che però, come diceva Pirandello, te ridi, però fai il tifo per il suo sogno, no? E questa è una domanda che ci viene fatta, perché forse siamo noi che abbiamo smesso di vedere una regina in ogni prostituta e un orco in ogni mulino a vento. Cioè, e Cervantes gioca su questo snodo, insomma. Sì, solo un avviso di 2 minuti forse, perché credo che dobbiamo poi passare alla prossima. Sì, stanno sognando noi che presentiamo. No, io allora ti dico, allora io non so rispondere bene alla domanda che hai posto e mi sembra anche ben posta, però faccio due precisazioni che poi forse possono aiutare. La prima è che, diciamo così, da sociologo, allora è vero che il rito in catena, da sociologo ti dico anche, però il rito è anche quello, non fa solo quello, il rito abilita, il rito crea legami, diciamo così, non immaginiamo nemmeno un'immagine di liberazione un pochino troppo, chiamiamo, modernista, ma nel senso di semplicista, dove, come dire, siamo nati con un sistema sociale che ci incatena e basta immaginare. Giuliano dice proprio: siamo comunità in quanto siamo regolati, siamo chiusi. Però, mentre, diciamo così, nel momento in cui ti, per dirla, no, vabbè, non lo dico così. Comunque, nel momento in cui ti chiude, come dire, ti permette anche la presa di parola. Ora, nell'altro senso ti direi banalmente, allora bisogna anche capire dove guardare quando si cerca, perché per esempio è chiaro che i valori del Signore degli Anelli sono tutti, a tutti i livelli, valori, chiamiamoli tradizionali, senza entrare nel dettaglio, però se te la guardi dal punto di vista, diciamo così, della struttura mitica che ogni personaggio segue, diciamo del racconto dell'eroe, per usare la versione di oddio, come si chiama? Di Campbell. Ogni personaggio, prima di poter dire torno a casa e anche tornare tornare alle patate, deve prima trovare una figura paterna che gli dica fa così, fa osà, e fare l'esatto in contrario, e poi quasi deve, anche tutto, deve fallire. Quindi uno che costruisce, diciamo così, l'idea di diventare finalmente se stessi, se vuoi anche riassumere un ruolo che è, non è un ruolo di distruzione dell'ordine sociale, un ruolo di riconferma, ma per farlo te devi tradire la regola del padre e poi fallire, diciamo così, dire che ha una visione di come si diventa uomo non sovversiva mi riesce difficile, ecco. Poi è chiaro che i valori che te invece trovi, quindi anche questa discussione può avvenire a vari livelli, diciamo, dipende anche molto da cosa guardi e cosa trovi. Ecco. Una cosa molto veloce, volevo solo indicare che è sotteso a molto del discorso che si sta sviluppando adesso, quello che diceva Andrea, le critiche a Tolkien, e poi mi riaggancio a quello che ha detto Vanni, un piccolo paradosso, che è tutto il passato non può essere progressista, però te puoi metterti in qualunque presente. Quindi, cioè, è chiaro che tutto il passato non può essere progressista, per il semplice fatto è passato. Il mito, la ierofania, il discorso è simile. Quando c'è un cambiamento, la fase distruttrice non è pura, perché non esiste il puro niente. Dopo viene sostituita da qualcosa che si conserva per un determinato tempo, e via, e via, e via. Cioè, il processo di cambiamento non può essere il metro in cui si giudica il valore di qualcosa. Dici, hai ragione, ma più volte è stato fatto riferimento al concetto di archetipo. Allora, l'archetipo non è una cosa che cambia così, perché cambia il modo di organizzarsi della società. Per cui in quello, per esempio, c'è una stabilità che prescinde dai fatti contingenti. Volevo solo dire. No, io volevo riprendere quello che avevi detto, perché è una cosa molto importante. Cioè, il rito è conservatore. Ora, questa tesi, che è difendibile, anzi è condivisibile purtroppo, però va analizzata alla luce di un fatto. E qualcuno ha scritto, parlando proprio dei giochi di ruolo e dei rave party nei confronti di Muro di Casse e della Stanza Profonda, che i giochi di ruolo o le feste libere sono diventate le sacche in cui si è espresso il desiderio utopico contemporaneo. Non mi ricordo chi la fece questa osservazione in merito a questi libri. È molto intelligente questa osservazione, mi ha aperto, me la sono rivenduta in chissà quante presentazioni, sia di Muro di Cassa che della Stanza Profonda, perché è vero, noi siamo anche una generazione a cui la possibilità effettiva della rivoluzione è stata negata, anzitutto a livello immaginario, d'accordo? Cioè ci è rimasto soltanto la pratica diretta. Questo vale sia a livello politico che a livello di immaginazione, no? Ed è sempre più ridotta, perché è chiaro che anche nel movimento italiano, quando arrivarono i rave, io mi ricordo negli anni, a fine anni 90, assemblee in luoghi come il livello 57 a Bologna, in cui chi aveva partecipato all'operaismo e quindi vedeva la pratica stessa dell'occupazione come una cosa fatta per pigliare un posto e renderlo a pratiche di tipo differenti, quindi l'occupazione Taz sì, ma non sul brevissimo, cioè si spera più lunga possibile, poi è chiaro che dopo può, però la pratica rivoluzionaria deve avere una sua, un suo precipitato nel tempo. È chiaro che già la Taz del rave, che a far bene può durare 2 settimane se proprio fa un technical grosso, ma in generale si liquida in un fine settimana o poco più, e tanto più quella del gioco di ruolo, che si liquida in una sera, e è recessiva, d'accordo? È una sorta di resistenza degli ultimi, nel senso, guarda, mi faccio questo angolino perché ormai ho accettato questo, qui c'è proprio il punk, no? No future, d'accordo? Ho già perso, mi prendo la mia sacca, mi prendo la mia zona temporaneamente autonoma. Però nota bene, qual è la caratteristica sia di un free party che di una campagna di Dungeons & Dragons? È la fortissima, anzi spiccatissima, anzi definitoria dimensione rituale. Cioè, a una festa c'è il sound system, ci sono gli accampamenti, tu arrivi, ti organizzi l'assunzione delle sostanze in un certo modo, creando una sorta di vero e proprio arco narrativo. Nelle versioni più postmoderne, delle più postmoderne, perché è già di per sé un fenomeno postmoderno, delle feste, ovvero sia i festival Goa, che sono diciamo l'espressione oggi non più libera perché paghi il biglietto, quindi implicitamente depoliticizzata, della cultura rave, addirittura si è sistematizzato l'ordine delle canzoni. Cioè alle 19 c'è la full on, poi alle 4 di notte, quando siamo tutti in cartone come mine, c'è la dark, e poi la mattina torna una musica più rilassante. Nel frattempo di là c'è la chill out. Beh, questa che cos'è se non una sistematizzazione rituale volta proprio a definire i passaggi, a scandire, suona la nona, hanno messo la full on, d'accordo? E nel gioco di ruolo, figurarsi, nel gioco di ruolo le regole sono libere, sono condivise, sono discusse, c'è un patto sociale di matrice anarchica, perché il master è al servizio dei giocatori, non è il dittatore, il master che ordina è un cattivo master, no? Va in una certa direzione, e questo rito sistematizzato da delle regole genera questi mondi, no? Io come esergo nella Stanza Profonda ho messo un passaggino dalla Bhagavad Gita, e sì, io l'ho fatta firmare direttamente da Krishna, perché per me esiste, tanto per dare ancora più forza accademica a questo testo, facciamo firmare i testi dagli dèi. Però questo è un passaggino della Bhagavad Gita, e voi sapete che nella Bhagavad Gita Arjuna, questo grande arciere, nonché erede di svariate stirpi, guarda gli eserciti schierati e riconosce una sterminata quantità di valorosi nel proprio esercito, ma soprattutto in quello degli avversari, no? E quindi chiede a Krishna, che in quel momento per una serie di storie non comprese nella Bhagavad Gita è finito a essere il suo carrista, il suo auriga, d'accordo? Perché l'altro esercito poteva scegliere se avere tutte le armi o Krishna. Ecco, gli scemi pigliano le armi invece e lasciano Krishna all'esercito avversario. E Krishna rivela a Arjuna tutta una serie di cose, diciamo un corpus filosofico molto denso. In ultima istanza gli dice: te vai e combatti, fai quello che devi fare. Però dice anche alcune cose su quella che è, secondo la visione vedica, la natura della realtà. Lui dice: se io smettessi di compiere le azioni prescritte, questi mondi perirebbero. Cioè lui sta dicendo: se io mi fermo, improvvisamente la ruota del Dharma si ferma e non ci sarà più niente, d'accordo? Quindi anche secondo questa lettura le azioni prescritte, non se io smettessi di esistere, di agire, di sognare, evidentemente qualunque diciamo, possibilità di creazione di mondi altri, ancor più se dotati di una connotazione politica, non può prescindere da una sistematizzazione. La sfida, volendo dare una lettura politica, secondo me è quella dell'aggiornamento del rituale, cioè il problema con i riti è che a un certo punto si incancreniscono, diventano più importanti del contenuto, no, poi è un problema elementare, perché le religioni sono mostruose, perché non perché praticano la spiritualità, perché il sistema di potere che esprimono, i ruoli, hanno preso molta più importanza del messaggio che in teoria dovrebbero dare. Quindi io non credo che non sia una... che il nodo non sia accettare o rifiutare il rito, perché una risistematizzazione del reale non può prescindere da elementi rituali, altrimenti sarebbe il caos, però deve mantenere una forza, quella eminentemente politica, di continua aggiornamento, rottura e riscrittura del sistema rituale, cioè il rito non diventi legge, ecco, la metterei in questi termini. Però mi piaceva molto questo scambio che avete fatto, mi sembra che si possa riassumere con che giudizio dai su quello che hai detto ora, il caos, no? Cioè, se il caos è il male, oppure se... cioè, e quindi è qualcosa che deve essere superato attraverso una sistematizzazione, una ritualizzazione, oppure se... se mi sembra aver capito bene quello che diceva Andrea, invece è probabilmente solo nel caos che uno può trovare qualcosa di genuino, di libero. Non so, vabbè, la butta lì. No, è interessante questa questione. È chiaro che se uno dice scelta secca, ordine o caos, io scelgo il caos subito, e sono consapevole che molte persone sceglierebbero l'ordine. Però il problema non mi pare questo, perché chiaramente questa diade è manichea per definizione, no? Perché poi la realtà non è mai né ordine né caos. Il punto mi sembra piuttosto il mantenere una fluidità dinamica, cioè nella tensione fra ordine e caos c'è la possibilità di una società giusta, dello stare bene, del trovare dei contenuti, cioè è lì che si gioca. Non basta il caos, quando c'è troppo ordine è utile, però nell'eccesso di caos ovviamente poi tornano fuori altre meno desiderabili forme d'ordine, lo stato di natura, eccetera eccetera. Quindi il compito umano, in questo ormai siamo proiettati verso possibilità di utopismo, è forse non quello, ed è stato l'errore delle utopie, di trovare un sistema che è buono ora e buono domani, e già prima di domani, già a sera, è diventata una distopia, ma mettersi nelle condizioni di poter generare continuamente nuove modalità organizzative, espressive ed immaginario, in modo che ci si mantenga in quella proficua entropia, d'accordo? Bene, grazie a tutti. Ricordo che Silvia Costantino, oltre ad aver tradotto parte delle visionarie, gestisce anche il banco dei libri gentilmente offerto dalla libreria Caffè La Cité. Comprate libri indipendenti, non li comprate su Amazon. Ci sono gli autori, quindi ve li firmano tutti. Gli autori ci sono. E ora ci si prende una pausa e dopo si parlerà di editoria indipendente, con anche la presentazione di due libri freschi freschi, Dimentica di respirare di Karen De Martin Pinten, più o meno pari a Tolkien a quanto ho capito da queste domande. Ma va, secondo me, ah sì? È vero che Facebook ha fatto sparire la recensione di Crapula, pare forse perché istigava all'eutanasia. È interessante questa cosa, va approfondita, e Zandomenica ti può dire di più. E L'amore a 20 anni di Giorgio Biferali. Ora un pausa e poi si continua. Grazie.